ti sei oscurato, non c'è strada via di casa. Sei stato comandante pesato e stimato, il tuo valore ormai è segnato. Cadi al minimo, non ricordi il tuo io, sei solo finito e stirpato. Crolla la colonna portante del sole, salta il fotoglione, salta nel fuoco, coglione, salta nel fuoco, coglione, salta nel fuoco, coglione. Comandante stimato e pesato, non c'è casa, non c'è via di casa, non c'è via di casa, non c'è via di casa. Comandante stimato e pesato, il tuo valore è segnato, segnato. Salta nel fuoco, coglione, salta nel fuoco, coglione, salta nel fuoco, coglione, salta nel fuoco, coglione, salta nel fuoco, coglione, salta nel fuoco.